Adesso tutti concentrati, mettetevi comodi e cominciamo. L'attesa è finita. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sì, siamo qui 800 24 00 24. Franco Piantenida, autore di questa puntata, Fabio Cantadori in regia. Facciamo subito gli auguri, così via il dente, via il problema. Auguri tutti di buon Natale, buone feste, buon fine 2014. Ma tanto noi non andiamo in vacanza, siamo qui, vi teniamo compagnia tutti i giorni, anche domani, anche il giorno di Natale. Breve rassegna dei giornali di oggi. Saluto intanto Nicolò Schirra, la mia guida di mercato. Ciao Nicolò. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti. Mancini sicuro che Cerci arriverà, probabilmente nella calza della Befana, per farlo giocare già il 6 gennaio contro la Juventus. Poi c'è Torres sulla strada di ritorno dall'Atletico Madrid, che però spedirebbe Cerci a Milanello per avere il Nino. Sì, lì la situazione è un pochino più ondivaga, perché ci sono due correnti di pensiero. Si parlava inizialmente di un possibile scambio Cerci-Torres. In realtà Torres potrebbe andare a secco a titolo definitivo all'Atletico Madrid, che spalmerebbe comunque l'alto ingaggio del Nino, 4 milioni netti a stagione su più anni, e sulla carta con i colchoneros Torres fungerebbe da vice Mandzukic, perché l'Atletico ha tante mezze punte, ha tanti attaccanti esterni, ne sa qualcosa Cerci, che infatti ha avuto pochissimo spazio, ma alla fine di punte centrali ha solo il croato. Cerci, l'Inter spinge, vuole chiudere subito. Il suo agente Sergio Berti, in parola con Mancini e Ausilio, insomma, da qualche settimana. Cerci vuole l'Inter, è in vacanza in Italia, non vorrebbe neanche tornare in Spagna, quindi già aggregarsi. Non ha prenotato neanche il volo di ritorno per Madrid. No? E quindi, insomma, la situazione credo sia più Inter che Milan. Ovvio, piace molto anche al Milan, però non dimentichiamo che il Milan l'estate scorsa non si comportò benissimo con Cerci, che fu un po' sedotto e abbandonato. Ci furono diversi incontri anche con Pippo Inzaghi tra Ibiza e Formentera, la promessa di portarlo al Milan, poi alla fine il Milan non lo prese e Cerci, tra virgolette, dovette ripiegare all'Atletico Madrid insieme a qualche hacker, ricorderai, in estate. Che belle queste storie di mercato. Possiamo dire che Cerci è il primo obiettivo dell'Inter, anche se c'è un derby col Milan? Ma potrebbe essere però in questo momento è un giocatore dell'Atletico Madrid, quindi insomma bisogna aspettare un po'. Pier, che belle queste storie di mercato, hai capito? Allora, il Milan ad agosto si è comportato male con Cerci, che ha fatto il famoso tweet, te lo ricordi? Sì. Quello è tutto fatto, vado al Milan. No, è stato un hacker. E non era stato un hacker, no? No, assolutamente. Possiamo dirlo, no, adesso anche perché che è Natale. Poi, insomma, la famosa denuncia alla polizia postale è finita nel nulla. Cioè, era il Milan quel tweet? C'era tutta una storia in cui c'era dentro anche il Milan, che aveva inseguito Cerci a lungo. Vado a memoria, magari mi sbaglio. Mi sembra che quel tweet fu 15 giorni prima per l'Atletico. Per l'Atletico, poi è stato smentito e 15 giorni dopo andrà all'Atletico, se non ricordo male. Sì, assolutamente, ricordi benissimo. Così come in estate, ricorderai, si parlò molto di Cerci, del Milan. Assolutamente. E di tante situazioni che a 3 mesi di distanza tornano. Oh, ma ne abbiamo anche altre, Pier, di queste storie meravigliose. Poi parleremo di destro. Però io penso che l'Inter sia più calda. Poi Kira è il boss, quindi potrà confermare o smentire. Ma così ha senso, anche a logica tecnica, mi sembra che l'Inter sia più calda. No, assolutamente, assolutamente. Anche perché il profilo, l'identikit, Mancini l'ha fatto capire anche in conferenza stampa, è quello. Per me è un acquisto, ne parlavamo l'altra sera con Lucio Bergamo, un acquisto eccezionale per l'Inter sarebbe stato Gabbiadini, ma lì il Napoli ha fatto un grande lavoro, si è mosso in anticipo, un giocatore con quelle caratteristiche. E poi soprattutto aveva i soldi qualità per pagare, cosa che l'Inter in questo momento non ha, e fa la differenza, perché più. Poi 800 24 00 24, se state preparando il cenone di questa sera, vi fermate per un paio d'ore, ci telefonate, parleremo anche di Formula 1, parleremo di tante altre cose, se avete domande di mercato le fate, 800 24 00 24, perché poi basta aver letto questa mattina l'intervista di Mancini alla Gazzetta dello Sport, Mancini ha già assegnato la maglia numero 11 della partita con la Juventus. Io non oso pensare dovesse andare male, Pier. Cioè, dovesse andare male nel senso che Cerci o torna a Madrid o peggio va a Milanello. Ho l'impressione che ad Appiano Gentile tremerebbero i muri. Sì, sicuramente. Insomma, io che ci sia l'idea che Mancini abbia chiesto e che dietro a questo suo... la sua scelta di Inter ci sia anche qualche garanzia su un gennaio all'attacco dal punto di vista del mercato, non ci sono dubbi. Sul profilo del giocatore io credo che lui sia in questo momento il favorito, il più probabile, e poi vedremo. Insomma, a me sembra complessivamente che l'Inter sia più sul pezzo del Milan dal punto di vista del mercato. Il Milan, la mia sensazione è che se farà cose le farà come sempre, no? Riproducendo in piccolo la stessa logica del mercato di agosto, cioè muovendosi alla fine, magari cogliendo delle opportunità che possono venire fuori, e dipenderà anche dal destino di Torres, nel senso che poi chiaramente se Torres rimane è un conto, se parte magari si può aprire un'altra storia. Sì, si libera anche una fettina di budget, sempre Mancini, questa mattina Gazzetta dello Sport, per il mercato Toir mi ha dato disponibilità e si può anche vendere per avere due o tre giocatori per il futuro. Siamo, ripeto, nelle ore dei desideri e dei sogni, poi dal 3 gennaio bisogna anche passare alla cassa, lì sorge qualche problema. Mancini magari ha delle richieste abbastanza esose, vuole un centrocampista, comunque un frangiflutti davanti alla difesa importante. I nomi sono quelli di Lucas Leiva del Liverpool, ma anche di Ignacio Camacho, un giovane spagnolo del Malaga che sta facendo molto bene, tanto da essere stato convocato nella nazionale iberica, e poi anche un difensore, visto che insomma col cambio di modulo serve un difensore magari rispetto a Ranocchia e Juan Jesus più abile con i piedi anche in fase di impostazione. Piace molto Nastasic, che il Mancio ha avuto al Manchester City, che al momento in Inghilterra non sta trovando particolarmente spazio. Poi Pier, letti anche oggi, semplicemente oggi, nomi di Lavezzi, Salah, Januzaj, Perisic, ne sto dimenticando qualcuno? Sì, Lavezzi è più un nome magari per l'estate, visto che difficilmente rinnoverà Parigi, guadagna però molto, quasi 5 milioni, quindi insomma per le casse dei club italiani che avevano sondato Lavezzi, e quindi anche il Milan in passato, la stessa Juve, un pallino di Allegri, è un pochino più complicata per il momento. In estate, a un anno dalla scadenza, cambiano molti scenari, magari con il cartellino in mano può prendere un'altra piega la situazione. Però è bello anche così, siamo 24 dicembre, è il momento dei sogni e della speranza domani di scartare il regalo. C'è una sola vera notizia poi oggi, in realtà, di mercato: Walter Zenga non allenerà il Cagliari, ha detto sono costretto a declinare l'offerta, ringrazio il presidente Giulini, ma per ora intendo rimanere a Dubai, sono contento di essere stato contattato dal Cagliari, ma per il momento aiuto il movimento calcistico in questa parte del mondo. Quindi la Z sarà quell'altra, molto probabilmente Gianfranco Zola, quella di Zola. 1, 2, 3 tutti convocati. Ciao, auguri a tutti i tifosi di Napoli. Buon anno, buon Natale a tutti. Feliz Natale a tutti. Gelukkige kerstdag iedereen aan alle supporters van Napoli. Auguri a tutti i tifosi. Buon anno. Ciao ciao, un abbraccio. Feliz Natale a tutti i torcedori di Napoli. E os deseo buon anno. Auguri di buon Natale. Felice anno nuovo. Joyeux Noël a tutti i tifosi napoletani. Auguri di Natale ai tifosi di Napoli. Feliz Navidad a tutti gli aficionati del Napoli. Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Forza Napoli. Tanti auguri di buon anno. Auguri a tutti. To all the Napoli fans, we wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Auguri a tutti i tifosi del Napoli. Un grande Natale. Forza Napoli. E volevo fare gli auguri a tutti i tifosi del Napoli. Tanti auguri di Natale. Un abbraccio. Auguri di buon Natale a tutti i tifosi del Napoli. Ciao, auguri a tutti i tifosi del Napoli di buon Natale e buon anno. Forza Napoli. Forza Napoli, sempre. E forza Napoli. Ciao. Oh, non ho sentito la voce di Gabbiadini, Pier, però sul Napoli siamo tranquilli, no? Sì, sì, devo dire che si è mosso in anticipo il Napoli, ha fatto molto bene, è un investimento importante ma una cifra ragionevole alla fine, quindi sai, oggi ci sono talmente tanti pochi soldi sul mercato che chi ne ha un po', no, cash is king, come dicono gli inglesi o gli americani, no? Chi ha la grana in questo momento è il re. Napoli si è accaparrato, secondo me, un buonissimo giocatore, un ottimo giocatore con un prezzo importante ma non trascendentale, quindi in prospettiva per me è un buon colpo. Sì, non è lunghissimo l'elenco di chi può spendere qualcosa, c'è il Napoli, c'è la Juventus, c'è la Samp perché è incassato dalla cessione di Gabbiadini, però direi che l'elenco più o meno si anche se poi la Samp ha già speso qui. Comunque per l'argentino Correa 8 milioni, quindi insomma comunque ha fatto un investimento importante in prospettiva anche legato al cambio di modulo di Mihajlovic. Ma Ferrero si è innamorato di Muriel, almeno così c'è scritto oggi piace sui giornali. Piace a tanti Muriel, anche se insomma è un giocatore di talento che però per il momento fatica ad esplodere. Anche quest'anno a Udine ha faticato, fa problemi fisici, è un giocatore che tende molto anche a ingrassare, insomma il vizio che aveva il vecchio Ronaldo, il fenomeno per intenderci, è sicuramente un attaccante di prospettiva, potrebbe muoversi, anche la Fiorentina l'aveva sondato. De Laurentiis ha detto ti sta simpatico a prescindere per questo. Ti sta simpatico perché è amante del carboidrato. Già mi sto simpatico. Però bisogna vedere come lo ritroviamo il 6 gennaio, perché poi adesso ci sono 2 settimane pesanti da questo punto di vista. Ha detto De Laurentiis, che ha detto tante cose in questi giorni, molte le abbiamo anche commentate domenica in diretta, ha detto: io sto con i tifosi, sono uno di loro, ascolterò tutte le richieste purché non siano folli. Che vuol dire tutto, vuol dire niente. Poi secondo me Piera Napoli la priorità numero uno è dal 6 gennaio capire cosa farà Benitez l'anno prossimo, perché non si può tirare tutto il resto della stagione con un allenatore diviso a metà. Ma questo senz'altro, io lo dicevo prima della partita, anche perché avevo delle buone sensazioni per il Napoli, poi non è sinceramente non è che mi senta particolarmente figo ad aver indovinato, perché la partita poteva vincere chiunque ed è finita ai rigori, però avevo la sensazione che il Napoli potesse fare una grande partita contro la Juve e l'avevo sottolineato nei suoi discorsi, no? Per me il rischio per il Napoli può essere quello di farci prendere dall'entusiasmo per una partita eccezionale, comunque giocata alla pari con la Juve, e pensare troppo positivo, illudersi. La verità è che il Napoli, nella continuità del campionato, se vuole fare il salto e pittare il terzo posto, che secondo me è ampiamente alla portata, cioè il Napoli è la favorita per il terzo posto di quelle squadre lì, può diventare la dominatrice della corsa al terzo posto, secondo me. Però per farlo deve fare delle, magari anche delle piccole cose, ma deve assestare assolutamente il pacchetto difensivo. Se non lo fa, rischia di ricadere nei soliti errori e magari sarà una grandissima squadra in Europa League, da competizione di Coppa, ma rischia di non avere la continuità, perché poi alla fine andiamo a vedere i punti persi con l'Empoli, con il Chievo, con il Cagliari, sono tanti, anche al San Paolo, e questo non è tollerabile, e quasi sempre è dovuto a delle disattenzioni difensive mostruose, troppi punti persi con le piccole. Certo, arriva qualcuno reparto difensivo. Sì, ne arriva un terzino sinistro, nazionale croato Ivan Strinic. Lunedì ci dovrebbe essere l'incontro a Milano, il giocatore in scadenza di contratto col Dnipro, nel mercato insomma dell'Europa dell'Est i giocatori vanno in scadenza il 31 dicembre, quindi dal 1 gennaio di fatto è uno svincolato. Il Napoli ha proposto un quadriennale da 1,5 milioni più bonus a salire, l'intesa è vicina, ci sono state offerte anche dalla Russia, però il giocatore è tentato dall'esperienza italiana, dunque una situazione decisamente calda. Il Napoli si potrebbe presentare appunto il 6 gennaio alla ripartenza del campionato con sia con Gabbiadini che con Strinic. No, non un fenomeno, ma dopo aver visto Albiol e Koulibaly andare a sbattere a Doha, De Laurentiis ha deciso di accontentare il nostro Pierluigi Pardo, quindi arriva anche il difensore. 800 24 00 24. Marco da Padova. Marco. Sì, buongiorno. Eccoci. Buon Natale a tutti, viva il carboidrato. Stanotte le grafico. Per l'anno nuovo mi piacerebbe avere come regalo una Coppa Nazionale uguale alla Coppa di Francia, alla Coppa d'Inghilterra. Detto questo, da interista sono contento dell'arrivo di Mancini. Non va bene la Coppa Italia come l'abbiamo? No, direi di no, visti assolutamente no. Insomma, basta vedere cos'è la Coppa in Francia, in Inghilterra o anche in Germania. Però Marco, dai quarti in poi la Coppa Italia da qualche anno è una manifestazione che interessa parecchio. Insomma, dagli ottavi in giù no, sono partite il mercoledì alle 14:30, insomma, veramente tristi. Credo veramente sarebbe più affascinante fare magari come capita adesso, però a campi invertiti, ovvero giocare sui campi delle squadre di Lega Pro o di Serie B, che invece vanno in trasferte, quindi chiaramente poi pagano dazio contro le formazioni a massima serie. Questo assolutamente, poi dovrebbero giocare tutte le squadre della federazione, è l'unico paese dove la Coppa non è di federale ma è di Lega. Detto questo, per quanto riguarda l'Inter, io sono pro Mancini, perché secondo me da subito si è visto il cambiamento di mentalità, la squadra come Mazzarri aveva paura, in un anno e mezzo non avevo visto un giro palla della difesa completo, adesso almeno con molti limiti, con poca qualità, che speriamo si rinforzi gennaio, io vedo una volontà di giocare, una volontà di attaccare, di salire, di accompagnare la manovra con più uomini, quindi... Da interista, insomma, ho ricominciato un po' a avere un po' di di visione del futuro, ecco. Sì, senza esagerare, Marco, perché non è che l'Inter ripartisse dalle macerie e non è che Mancini poi abbia fatto il filotto, Pier, da giustificare entusiasmi particolari. No, Mancini non ha fatto il filotto. Io credo che si debba dire dopo 5 giornate. Io penso che sia intellettualmente onesto riconoscerlo, insomma, perché la fiducia nei confronti di Mancini c'è, la stima, se mi posso permettere, anche la simpatia personale, perché insomma, io l'ho amato da morire da calciatore. Soprattutto Mancini è un'icona del calcio italiano ed è un allenatore che ci ha vinto tanto. Però insomma, poi chiaramente 5 partite non sono statisticamente rilevanti, però queste 5 partite ha fatto un punto di media, ragazzi. Sì, che è certamente meno di quello per cui è stato chiamato. Ha perso la sua partita male, quella con l'Udinese, come Mazzarri ha fatto prima. Ha fatto la sua rimonta con la Lazio, come Mazzarri l'aveva fatta col Napoli. Perché poi ci sono anche delle analogie, no? Tra Mazzarri e Mancini. Sinceramente, la media dice 1,45 Mazzarri, 1 Mancini. Non la voglio interpretare in maniera statisticamente ferrea, dicendo Mazzarri è meglio di Mancini, perché no, però francamente sostenere il contrario è molto complesso in questo momento. C'è la svolta, l'idea che l'allenatore nuovo potesse portare anche grazie all'entusiasmo e al carisma indiscutibile, ripeto, di un grande allenatore, è però un'idea che dopo 5 partite per ora non ha trovato riscontro. Sì, si è visto qualche accenno e via. Niente di definitivo. Io non ho visto una buona partita col Chievo, fuori casa, sì. Per il resto, pareggio con la Lazio è un pareggio di una partita che secondo me la Lazio ha buttato via e che ha dominato tatticamente nel primo tempo. La sconfitta con l'Udinese, sicuramente l'Inter non è stata fortunata perché poteva chiuderla prima, stare 2-0 a inizio ripresa, però è stata sconcertante. Con la Roma si sono viste delle cose interessanti in fase offensiva, ma dietro è stata una piaga. Adesso arrivano i 2-3 acquisti, arriva l'esterno fortissimo, certo, che dribbla, che fa la differenza, che fa gol. Però io in questo momento penso le cose si sistemano. Si chiama Walter Mazzarri e credo che se si è intellettualmente onesti, al di là delle sue colpe e del fatto che lui certamente ha fallito, bisogna riconoscere che chi è arrivato dopo di lui fin qui la bacchetta magica non ce l'ha avuta, quindi non era solo colpa di Mazzarri. Su questo credo che ormai ci sia proprio la prova scientifica. Sì, qualche dubbio era venuto già in quelle ultime settimane. Gianni dalla provincia di Pesaro, anzi Pesaro Urbino. Gianni. Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. Allora, innanzitutto auguri di buone feste a voi e a tutti i tifosi, prima i juventini e poi a tutti gli altri tifosi, a tutte le altre squadre. A tutti. Per essere dai buoni, via, diciamo. Ascolta, una cosa solo. Innanzitutto sul calciomercato, io Gabbiadini non l'avrei mai dato a Napoli, non solo a Napoli, neanche a nessun'altra squadra. Me lo sarei tenuto fino a fine stagione alla Sampdoria e poi l'avrei portato alla Juventus. Poi un'altra cosa, in base alla partita di lunedì di Supercoppa, mi sembra strano che sono più arrabbiato per la sostituzione di Pirlo che per la Coppa persa, le dico la sincera verità, perché Pirlo non si deve mai sostituire a meno che non lo chiede lui, e Allegri già ha avuto problemi con lui. Non vorrei che noi perdessimo Pirlo per colpa di Allegri. Sì, dibattito aperto, poi fate sì. Due statistiche: Allegri ha tolto Pirlo 7 volte su 13 in questo inizio di stagione, Conte lo aveva fatto 12 volte in 3 anni nei suoi 3 anni della Juve. Però c'è anche da dire che quello di quest'anno è un Pirlo un po' diverso, Pier. Pirlo posso dire una cosa proprio uguale e contraria. Pirlo va sostituito, ma no, cioè non Pirlo è un genio, però è un giocatore chiaramente che non ha 20 anni, è un giocatore che si può stare che in un certo momento della partita venga sostituito per far entrare chi è più fresco e chi dà più dinamismo. Non è che tutte e 7 le volte in cui Pirlo è stato sostituito poi la Juve ha pareggiato o ha perso, anzi, adesso vediamo la statistica, ma insomma non credo che sia così. Ripeto, lo dico con un rispetto totale per una delle icone globali del calcio mondiale di questi degli ultimi 20 anni, ma la gestione dei talenti un po' anziani è un tema caldo, un tema che per esempio a Roma da anni si sono posti con Totti, perché noi vorremmo che il tempo non passasse mai, vorremmo rimanere sempre 18enni e giovani, e nel caso di Pirlo, come nel caso di Totti, come nel caso di Del Piero fino a un paio di stagioni fa, siamo di fronte a dei fuoriclasse enormi che ti danno anche la percezione di non invecchiare, quasi di sfidare le leggi della fisica. E Pirlo questa cosa la sta facendo in maniera eccezionale, però che adesso Allegri non abbia la libertà in una determinata situazione tattica di poterlo cambiare, perché magari ha bisogno di qualcuno che faccia un po' più di legna e un po' più di dinamismo, per questo sarebbe fare un torto, secondo me, al senso di squadra. Pirlo ti deve dare la qualità, Pirlo ti dà le punizioni, Pirlo ti dà anche l'altra sera Pierre era un po' in difficoltà nel momento in cui è stato sostituito, cioè, aveva anche una logica il cambio di Allegri, poi ovvio va male, prendi due volte il pareggio, perdi la Supercoppa. Aveva una logica che io difendo perché era solamente un cambio che ci stava. Poi è chiaro che qualsiasi allenatore, nel momento nel quale toglie dal campo un'icona, quando toglie un'icona deve pregare Dio che le cose gli vadano bene, perché se gli vanno male troverà sempre qualcuno che gli dirà che quella partita l'ha persa perché ha tolto l'icona. E questo vale per Totti, vale per Pirlo, vale per Del Piero a suo tempo. Ci sono giocatori ingombranti perché sono meravigliosi, perché sono stupendi, perché sono fortissimi, e quindi poi chiaramente nel momento nel quale lo togli o non lo spieghi e la squadra non fa risultato, immediatamente immaginario la colpa è dell'allenatore, perché se ci fosse stato lui avresti vinto. Sì, detto che poi Allegri e questa Juventus hanno evidentemente ancora un po' di ansia da prestazione, perché il confronto con quella di Conte è ancora lì dietro l'angolo, i numeri fin qui promuovono Allegri. Però ad esempio la Supercoppa lascerà qualche strascico, qualcosa stiamo già leggendo su Gabbiadini, a giugno finiscono le comproprietà, quindi o la Juve li compra tutti i giovani che ha, oppure qualcuno deve venderlo. Come è accaduto l'anno scorso per Immobile, la Juve comunque gestisce diversi attaccanti di grande prospettiva, uno è Domenico Berardi che comunque è in classe 94 del Sassuolo, che sta facendo molto bene, ha un diritto di recompra da esercitare eventualmente nei prossimi due anni a 15 milioni per Simone Zaza, e dunque come è accaduto per Immobile qualcuno magari lo devi sacrificare per fare cassa. La Juve comunque porta a casa una plusvalenza di 3,5 milioni, che sicuramente non solletica i tifosi, ma che tu, anche tu Giovanni, sai bene perché sei molto attento ai bilanci, alla fine poi comunque per una società ha il suo perché e la sua importanza. Scrive un amico: Rugani va alla Juventus già a gennaio, 349-238-6666 se avete dei messaggi. Difficile a gennaio, sicuramente a giugno la Juve lo riscatterà per 3 milioni, a gennaio l'Empoli ha chiesto un favore alla Juve di lasciarglielo per salvarsi, anche perché insomma Rugani rappresenta una colonna portante della squadra di Sarri. Torniamo subito. Il cambio di Pirlo, perché ha optato per Marchisio in mezzo in quel momento? Ma eravamo in difficoltà e Andrea ci dava molto sul palleggio, ma avevo bisogno di uno che ci desse un po' più di copertura, e direi, poi tra l'altro nel momento in cui è uscito abbiamo preso gol, purtroppo è andata così, dispiace, sono molto dispiaciuto soprattutto per i ragazzi, perché hanno fatto veramente una buona partita e non dovevamo prendere gol all'ultimo minuto. Convocati. Cucini? No, per niente. Zero? No, zero. Ho sempre avuto donne meravigliose su questo punto vicino che a me. Iniziato, Sì, sì, anche se ho passato molto tempo solo, e allora sì, fare un piatto di pasta, non come gli italiani, a posto, e faccio come un francese, vuol dire sono immangiabile normalmente, ma almeno non muoio di fame. Formaggi francesi o formaggi italiani? Ma veramente i due, penso che ci sono forse più varietà in Francia, sì. ma io ho vissuto a Lille e veramente ci sono formaggi di là, soprattutto che ne so, le vieux Lille si chiama, il vecchio Lille, ma questo formaggio puzza in un modo incredibile, quando lo mangi veramente è divino. Divino. Si chiama Le Vieux Lille? Le Vieux Lille, sarebbe il vecchio Lille? Esatto, è il nome del formaggio. Ma tipo, non so, è un formaggio morbido, sì sì, ma quando arrivi in un posto, prima di entrare di appoggiare la porta, sai che c'è del Vieux Lille dentro. Quindi vabbè, allora diciamo che francesi. No, io ho scoperto dei vini in Italia fantastici, veramente. I vini dell'Alto Adige mi piacciono tanto. Il Montepulciano d'Abruzzo anche. Mica male, eh? Sì, perché... Ma io forse ero predestinato... Sei da rosso, quindi. Sì, sono molto più da rosso, anche se ci sono dei vini del Bourgogne, dei Borgondi bianchi, ma incredibili. Perché io, come ho vissuto 5 anni a Dijon, nella Bourgogne, nei Borgondi, capisco molto dei vini di questa zona. E io, a me, mi piacciono molto più i vini di questa zona che quello di Bordeaux, per esempio, che sono più, magari più famosi, sono più, sì, molto più famosi. Ma dei grandi vini della Bourgogne veramente sono fantastici. Opiar cucini? Ma poco, però posso dire che sono ampiamente dalla parte dei vini italiani. Credo che qualità prezzo dei vini italiani sia nettamente migliore di quello dei vini francesi. Yeah. Non male i gusti di Garcia. Non so se hai letto Pallotta, che dall'America gli ha mandato a dire: siamo già una squadra da scudetto, senza gli infortuni di Castan e Strootman saremmo primi. Non ha parlato degli arbitri, Pallotta. Beh, Pallotta, guarda, posso dirti, Pallotta mediamente porta sempre questo messaggio, no? Anche nei giorni caldi di post-Juve Roma, ricorderete che c'erano le dichiarazioni di De Sanctis, le dichiarazioni di Tozzi, le dichiarazioni di Garcia. Pallotta era quello fuori dal coro, cioè era quello che disse, adesso non mi ricordo esattamente quale frase, ma tipo, il concetto era far decantare, evitare polemiche. E disse: ragazzi, diamoci una regolata, sì, si tratta solo di una partita di calcio, mi sembra che si sia esagerato, peccato che tutto il resto del mondo romanista andasse controcorrente, o meglio, ma che Pallotta andasse controcorrente rispetto a tutto il resto del mondo romanista. Fa parte dei ruoli, secondo me è positivo che il massimo dirigente, quindi è quello più razionale, più distante dallo sporco della partita, no? Dall'emozione, dal sudore della partita, dalla polemica e dal nervosismo, porti questo messaggio, anche perché il progetto della Roma sta crescendo, però insomma, diciamo, sì. Poi arriva anche lo stadio della Roma di questi anni, mi sembra che sia veramente in crescita, e ha ragione secondo me. Babbo Natale ti porterà un nuovo telefono domani mattina, gliel'abbiamo commissionato noi. Pier, ti recuperiamo. È così, ti recuperiamo. Intanto oggi si gioca, perché è vero che la Serie A si ferma e fa le vacanze, però oggi c'è la Serie B, anzi c'è già stata, perché Crotone e Frosinone hanno già giocato 2-0, poi dalle 15 c'è tutto il resto del programma, poi si torna in campo il 28 dicembre, poi le vacanze fino al 17 gennaio. Saluto Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B. Presidente, buongiorno. Buongiorno, io saluto voi e tutti i radioascoltatori. La formula funziona. Davo un'occhiata ai numeri dell'anno scorso di presenze negli stadi, evidentemente si può fare anche in Italia, non solo in Inghilterra. Si fa dove si vuole, perché bisogna peraltro mettersi anche a disposizione della gente. Io ho detto dall'inizio della stagione, il nostro è il campionato degli italiani, e bisogna saper stare vicino agli italiani anche nei giorni di festa, visto che 9 italiani su 10 in vacanza non vanno. Almeno offriamo un paio d'ore oggi e poi il 28 di dicembre, per cercare di rendere queste giornate un po' più liete. Sì, perché evidentemente c'è la domanda, ripeto, questo lo dicono i numeri. Tra l'altro, davo un'occhiata questa mattina sui giornali, ci sono statistiche sulle presenze negli stadi di Serie A, si perde il 6%, mi pare di capire che invece la Serie B sia in controtendenza rispetto a questo tipo di dati. Sì, è un'altra cosa che ci dà grande soddisfazione. In fondo il nostro indicatore principale è quello, non sono certamente le reti, non sono... i giovani. Il primo indicatore importante per noi è quanta gente entra nei nostri stadi. Ci emoziona, ci appassiona, ci diverte, ci gratifica molto di più un incremento di spettatori che tutti gli altri indicatori. Pier, Bologna Provercelli, Brescia Bari, Carpi Perugia, Cittadella Catania, Latina Entella, Pescara Varese, Spezia Lanciano, Ternana Modena, Trapani Avellino, Vicenza Livorno. Questo è il programma delle 15. Evidentemente si può anche in Italia, Pier. Poi cercheremo di capire perché i grandi, quelli della Serie A, a questo tipo di discorso continuano a essere allergici. Ecco, io voglio ringraziare il Presidente, perché sapete che io sono politico, purtroppo non soltanto dal punto di vista delle partite, ma anche dal punto di vista del cibo. Per carità, la bulimia è una malattia grave, stavo giocando, però insomma voglio dire, mi piace molto e volevo fare con lui un bilancio, volevo capire che tipo di riscontri ci sono, perché insomma immagino che abbia dovuto scontrarsi all'inizio con certi tradizionalismi, certe ritrosie, invece mi pare che l'esperimento del giocare il 24 e il 28, che poi è in linea con il calcio inglese, stia andando molto bene, o no? Molto bene, incremento di pubblico negli stadi già l'altro anno e quest'anno sarà la stessa cosa, mi auguro. Da quello che sto vedendo adesso a Trapani, in una bella giornata, direi più primaverile che invernale, credo che anche il dato di questa stagione sarà positivo. Non è più un esperimento, lo considero ormai una tradizione. A questo punto, dopo due stagioni di prova, questa qui è la prima di una lunga serie, perché andremo avanti sempre, perché si è trovato un equilibrio, per quanto qualcuno, inevitabilmente mugugni. Io ho cercato di spiegare a tutti la nostra comunità, dei tecnici, allenatori, dirigenti, che noi siamo al servizio della gente, e quando la gente è in vacanza noi è giusto che lavoriamo, ed è anche un bel lavoro il nostro, quindi dobbiamo comunque essere felici e ringraziare Dio. Sì, c'è sempre un po' di fatica a far passare questo tipo di messaggio e di novità. Pier, prego. No, dico che in piccolo è la stessa situazione che vivono i giornalisti sportivi, le piccole rotture di scatole dell'essere sempre in maniera anticiclica, no? Nei confronti del resto del mondo, ma anche il piacere di fare una cosa divertente. Si può fare un bilancio della gestione da vecchio dopo le grandi polemiche dell'estate? Che lettura dà il presidente Abodi di questi primi 5 mesi ormai? Allora, prima di dare la risposta, voglio proprio parlarvi di comunicazione, perché questo è uno strumento che anche noi dobbiamo cercare di utilizzare bene, al meglio, e vi ringraziamo tutte le volte che ci date un po' di spazio. Non sempre succede, oggi mi dispiace, ma lo voglio segnalare, perché apro i giornali, come succede tutti i giorni naturalmente, quelli sportivi in particolar modo, ma non soltanto quelli, e vedo insomma, un giornale del quale non dico il nome, ma che comunque si stampa su una carta rosa, che in prima pagina nega praticamente questa giornata di calcio vicino alla gente. E allora mi domando, parliamo tanto del calcio italiano, che certamente ha bisogno di cure, e quindi inizio un po' a dare anche la risposta alla tua domanda, ma se uno dei principali organi di informazione sportiva nega un fenomeno di fatto, che è quello che noi giochiamo mentre gli altri vanno in vacanza, mentre gli altri guardano il mondo, noi guardiamo negli occhi la nostra gente, diciamo siamo con voi, e non riusciamo a trovare lo spazio decoroso di qualche centimetro quadrato, vuol dire che qualcosa non va neanche nell'informazione. Dopodiché questi pochi mesi sono ancora pochi mesi, c'è secondo me un segnale importante, che la volontà delle quattro leghe principalmente, ma poi ci auguriamo anche con il concorso delle componenti tecniche, di riformare il calcio, di modernizzarlo, sta andando avanti. Ci sono tante decisioni prese, moltissime che verranno prese nei primi mesi del prossimo anno, quindi noi veniamo giudicati da voi sulla base delle cose che facciamo, più che sulla base delle cose che diciamo di voler fare, e quindi il giudizio vero sarà quello vostro e quello della gente. Siamo partiti con questa gestione con certamente un deficit di consenso, mi auguro che piano piano la gente, vedendo il lavoro, possa ricredersi. Lei che idea si è fatto del dibattito che si è aperto sull'appoggio che il calcio italiano sta dando a Conte, stage a parte, date della prossima stagione? È stato davvero sedotto e abbandonato, cioè sedotto dalle promesse estive per convincerlo a prendersi la guida della nazionale, e poi adesso si trova un po' da solo, con dietro nessun esercito? Assolutamente no, io credo assolutamente no, ne ho testimonianza diretta. Il rapporto tra il presidente federale Antonio Conte è costante, non voglio dire quotidiano, ma comunque è costante, e Conte sa che in federazione avrà sempre, come è giusto che sia, non lo considero neanche una notizia o un fatto che vada rimarcato, avrà sempre tutti i supporti necessari per poter far bene lui con la nazionale maggiore e con tutte le nazionali, perché anche le under sono sotto la supervisione di Antonio Conte, come sapete, quindi per noi la maglia azzurra ha un valore supremo. Dopodiché ci sono anche degli interessi che riguardano la Serie A, perché la Serie B è strafelice di dare tutti i suoi ragazzi con le nostre 22 società all'Under 21, all'Under 20, e si augura magari che un giorno possa anche essere coronato il sogno di una convocazione di un nostro giovane nella nazionale maggiore, e Conte sta guardando anche in Serie B. In Serie A ci sono interessi un po' più complessi da amministrare e da gestire, obiettivi da perseguire, da raggiungere, da difendere per certi versi, non, è un po' più complicato, ma vedrete che soprattutto per quanto riguarda la preparazione agli europei, tutto quello che Conte chiederà verrà dato e non concesso, perché non la considero neanche una concessione. Quindi a partire da quella data di fine della prossima stagione, anticipata rispetto all'ipotesi del 22 maggio, che sarebbe non in linea anche con quello che faranno gli altri campionati europei? Io penso che quel dato lì sarà, quell'obiettivo lì sarà raggiunto, e mi auguro anche che lo stage, senza volergli dare eccessiva sacralità, ma una giusta funzione, possa essere considerato uno strumento, un viatico necessario per arrivare poi all'obiettivo, che è quello di ben figurare gli europei. Pier. Sì, beh, io credo che questo sia assolutamente l'auspicio. È finita, che sensazione ha Pell, presidente Abodi? È finita, si dice che c'è ancora da scavare, no? Quando si tocca il fondo. A me sembra, ma forse perché sono un inguaribile ottimista, che il calcio italiano abbia pian piano ricominciato in Europa, i risultati dell'Europa League, siamo ancora distantissimi, però insomma si sia lasciato il peggio alle spalle. È una sensazione che lei condivide? Mi sembra che già il modo nel quale stiamo affrontando l'Europa League quest'anno sia quantomeno più onesto con noi stessi, cioè ci stiamo impegnando di più, perché direttamente in questo momento quella competizione ci può dare di più. E intanto per la prima volta, è un fatto statistico, quindi non è neanche una valutazione, è una presa d'atto, tutte le nostre squadre sono passate e anzi si sono arricchite, purtroppo della Roma, che avremmo preferito vedere andare avanti in Champions League, nonostante sia arrivato fino all'ultimo a giocarsela, non ce l'ha fatta in questa stagione. E ricordiamo tra l'altro che per il ranking europeo, che così tanto ci ha penalizzato per nostri limiti, le partite di Champions League e quelle di Europa League valgono la stessa maniera. Per quanto questo possa sembrare stravagante, quindi andare avanti fino in fondo può consentire in ogni caso un recupero di quella posizione che per noi è determinante, che ci consentirebbe di riconquistare nel tempo la quarta squadra, che rappresenta pur sempre un obiettivo sportivo ancora prima che economico. Io sono convinto che il fondo l'abbiamo toccato, anche se c'è ancora tantissimo lavoro da fare, c'è un modello complessivo da migliorare, e proprio sulla necessità e sull'impegno che ci siamo presi di migliorarlo si misureranno poi gli effetti del nostro lavoro nei prossimi mesi. Grazie presidente. Grazie, auguri. A voi sempre. Faccio gli auguri a tutti i tifosi sportivi, a tutti gli amanti del calcio e alla grandissima famiglia della Serie B. Grazie ad Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B. Il programma ve l'abbiamo dato a partire dalle 15, poi Serie B che torna in campo anche il 28 dicembre. 800 24 00 24, noi siamo qui fino alle 16. Adesso c'è il traffico, poi Pier, per tua grande gioia, la moviola del numero 1 l'ha fatta oggi il designatore Messina, te la leggo tutta. Va bene. Tutti convocati. Barriera con una mano, dice Pirlo, calcio di rigore. Pallone tagliato sul secondo palo, Caseres, c'è un abbraccio, calcio di rigore per la Roma, fallo su Totti. Vidal è fuori gioco su questa palla, perché proprio è davanti al portiere. Era di rigore, Gervinho prova a passare con le finte in area, Gervinho ancora con il sinistro, due volte Gervinho, calcio di rigore, tocco di mano di Versalico che viene anche ammonito. Fa sempre tanta fatica a venire avanti, 33esimo, Gervinho, il cross con tocco di mano di Versalico, per Irrati è calcio di rigore, qualche dubbio resta. Roma che continua a spingere, il cross, palla sotto porta, c'è arrivato Diego Lopez, anche se qui ci sono proteste da parte dei giocatori della Roma. Gervinho la tocca, ma anche De Jong la tocca. Anche De Jong. Eccolo qua, sì. Poteva mancare la moviola di Natale, carissimo Pierluigi Pardo. Sì, poteva mancare. No, non poteva mancare. Fidati, poteva mancare. Gazzetta dello Sport di oggi, Domenico Messina, designatore degli arbitri di Serie A, ha fatto la moviola al girone d'andata. Ad esempio, sul mani di De Jong, ti interessa sapere che cosa ha detto? Sì, l'ho già letto, prego. Era rigore, ma l'addizionale di porta era troppo vicino, e questo è un handicap perché schiaccia la visuale. Ti ha convinto? Sì, ma vabbè, era vicino, c'era da chiedersi a cosa servisse la di porta, lo dico con rispetto, premesso che Io sbaglio continuamente, faccio errori dalla mattina alla sera, quindi poi bisogna sempre ricordarsi che l'errore è una delle componenti della vita, ci mancherebbe altro, alla malafede non voglio neanche pensarci. Detto questo, è un errore gravissimo, come ce ne sono stati altri. Mi appassiona poco il gioco. Sì, sai cosa ha detto Messina? Ha detto: a Firenze e Torino i giudici di porta hanno sbagliato, così come a Roma sui falli di mano, però sono fondamentali. Ad esempio, l'anno scorso Orsato stava per dare rigore a Vidal in Inter-Juventus, ma è stato corretto da D'Amato. Quindi guai ad eliminarli, cosa che invece credo accadrà dalla prossima stagione. Sì, io credo che quando ci sono degli errori, nei quali in qualche modo sono coinvolti gli arbitri di porta, o perché sbagliano loro correggendo il giudizio dell'arbitro come successe anni fa, o comunque dando un'indicazione che poi l'arbitro tramuta in un giudizio sbagliato come successe nel famoso Catania-Juve di tanti anni fa, oppure anche attraverso situazioni in cui sbagliano perché sbagliano, perché fa parte della natura umana, allora in quelle circostanze lì uno dice: c'era pure l'arbitro di porta, come ho fatto a non vedere? Tante altre volte non ce ne rendiamo conto, fanno molto meno notizia gli arbitri di porta, con la comunicazione con l'interfono o con l'arbitro danno indicazioni utili. Quindi, come sempre, la cattiva notizia fa più notizia della buona notizia. Chiedo scusa per il e comunque, no? Se l'addizionale di porta non ha visto, è anche perché è troppo vicino e quindi la visuale è schiacciata. Sì, no, ma guarda, quello può essere. Questo l'abbiamo preso oggi. Però l'addizionale di Roma ha visto il fallo di mano di Armero a 60 metri, lì evidentemente era meno vicino e quindi aveva la visuale non schiacciata. No, sto scherzando, te ne dico altre due o tre, vuoi? Vai. Sul gol di Bonucci, quello del 3-2 di Juventus-Roma, quello di Rocchi, non so se ti ricordi la partita. Ricordo abbastanza. Qualcosina. Era regolare, secondo le nuove interpretazioni del fuorigioco. Il mani di Pizarro al 93esimo di Fiorentina-Juventus, su cui abbiamo passato giornate intere a discutere, no? Ricordi? Un po' meno, di quello si è parlato poco. Quella pizzicatina, partita, il pugno su Pogba. Di quello si è parlato poco perché per un meccanismo nemmeno troppo comprensibile, col fatto che c'era stata la trattenuta di Chiellini, se non sbaglio, nel primo tempo, la partita è finita in parità. Mi pare che di quell'episodio si è parlato poco. E poi l'arbitro era Rizzoli, e quindi diciamo gode anche di una giusta fama. E quindi, beh, comunque, quel mani di Pizarro lì, dice Messina, comprensibile la scelta di valutarlo involontario. Certo, avessero fatto il contrario, non ci sarebbe stato nulla di cui scandalizzarsi. E poi il rigore di Roma-Sassuolo, quello che ti interessa. Ma guarda, se devo essere sincero, non c'era nessuno che mi interessa in maniera particolare. Comunque sentiamo il rigore di Roma Sassuolo. L'arbitro ha considerato il movimento del braccio non congruo, ma rivedendo le immagini il giudizio cambia. Quindi ci vuole la moviola. Infatti, no, qui questo l'aggiungo io, perché in realtà Messina dice la moviola servirà solo per il gol non gol, per tutto il resto lasciateci gli addizionali di porta. Sì, no, ma la moviola, sai come la penso, deve servire per tutte le situazioni metriche, per tutte le situazioni che siano misurabili da un punto di vista oggettivo, al di là delle valutazioni filosofiche se esista o meno l'oggettività, ma insomma se un pallone supera completamente una linea o se il piede di un difensore è in fuorigioco, è oltre rispetto a un altro, poi lì la moviola non sempre chiarisce. La tecnologia secondo me è un dovere inserirla nel gioco del calcio. Su altre situazioni che sono l'entità dei contrasti, lì è molto più difficile. Lì è molto più difficile perché è un elemento di discrezionalità arbitrale che dicta anche l'altro sport. Ma noi cominciamo già a togliere le situazioni estreme, le situazioni misurabili, già secondo me un 50% del problema. Sì, facciamo un passo avanti. Poi togliamo la roba più scabrosa, perché quando c'è un pallone che entra, come è successo, il gol di Puntani, ma sono mille situazioni, quelle lì sono le situazioni più clamorose, no? È successo al Bari, se non sbaglio, qualche settimana fa, in una partita in casa, il gol del pareggio del possibile 1-1 col Carpi, no? Il pallone è entrato in maniera talmente clamorosa che lì è difficile capire. Qualche centimetro. Ma lì è interesse pure degli arbitri, secondo me, evitarci una brutta figura. Ma io, guarda, ti dico la verità, sono d'accordo con te, ma aggiungiamo anche altri giudici di porta dall'altra parte, tanto ci sarà sempre una visuale schiacciata poi di cui discutere di fronte a un fallo di mano, a una trattenuta non vista, perché poi gli amici da casa possono scrivere, come appena arrivato un messaggio: l'Italia da Braschi a Messina non è cambiato niente, arbitri nel dubbio sempre a favore della Juventus e del Milan, e così noi andiamo avanti, no? Sì, niente, no, ma a me sai che questo tipo di giornalismo proprio non me ne frega niente. È per quello ti ho fatto la moviola di Natale. Cioè, non sono uno di quelli che ha piacere di... Io spero sempre, anche perché mi sento telecronista, e so che il telecronista, in maniera assolutamente piccola rispetto all'arbitro, ci mancherebbe altro, ma vive comunque un imbarazzo quando ci sono gli episodi da moviola, perché comunque se chiaramente lo fai notare, però se lo fai notare troppe volte, allora ci sarà qualcuno che dice perché l'ha fatto notare tutte queste volte. Se non lo fai vedere è perché lo stai censurando. Però adesso questi vincono 1-0, ma tu perché non ricordi ogni 5 minuti che c'è stato il rigore negato? Quindi alla fine è una complessità, è una rottura di scatole mostruosa pure quella. Poi per l'arbitro questa cosa è alla millesima potenza. Io credo che l'arbitro sia abituato a certamente il pelo sullo stomaco che gli deriva da tanti anni passati nel calcio giovanile, e secondo me oggi che siamo in questo clima natalizio bello e anche un po' retorico, dobbiamo ricordare che ci sono arbitri che escono con la scorta delle partite dei campionati minori, e questo è assolutamente incivile, e questo è assolutamente incivile. Sono gli arbitri delle partite giovanili i primi che dobbiamo tutelare, e dobbiamo ricordarci che l'errore è sacro. Quante volte nella nostra vita ci sbagliamo sulle piccole cose, ci dimentichiamo una cosa, cioè si sbaglia. Sei pronto a fare il presidente dell'AIA, Pier? Ti lanceremo nel 2015. Ma assolutamente no, però questa cosa qui è vera, cioè questa cosa qui è vera. Detto questo, così come è vera che la battaglia fra telecamere e arbitro è impari. Perché per quanto tu possa dare... Sono due partite diverse, una prima e una dopo spezzettata. Quindi, aspetta questo, che c'è... Pier, prego. Sì, vai. No, okay. C'è Massimo da Brindisi, poi abbiamo per la seconda una cascata di domande di mercato per il nostro Nicolò Schira. Massimo da Brindisi, Massimo. Buongiorno a tutti. Eccoci. Vorrei fare due considerazioni e poi vorrei i vostri commenti. Allora, la prima è su varie TV, su varie radio, sento parlare... Di questo momento di pareggi viene visto come un momento di crisi da parte della Juve. Cioè io, vedendo questi pareggi, vedo forse l'unico pareggio inaspettato per come aveva giocato con la Sampdoria. Poi gli altri vedo un pareggio in Coppa dei Campioni che ci è servito per passare il turno, un pareggio a Firenze che ci sta... Sì, sono risultati che vanno analizzati. L'altra cosa, Massimo? L'altra cosa invece vorrei sapere dagli ospiti che avete in collegamento se ci sono delle operazioni di mercato che la Juve potrebbe chiudere in questa finestra di calciomercato. Questo te lo dice Nicolò Schira dopo il GR delle 15. Pier, invece, sulla Juve, su questo momento un po' così. Ma ragazzi, ma che momento così è? Mi spiegate, se qualcuno me lo spiega, la Juve ha 39 punti. Sono 4 pareggi praticamente in 4 partite prima di Cagliari. Secondo me, per carità, è un po' di ansia da prestazione, Pier, lo dicevamo prima. Sì, comunque c'è il confronto con la Juve di Conte che è difficile ed è sempre lì dietro l'angolo. La prestazione ce l'ha pure la Roma che pareggia col Milan 0-0 e torna a meno 3. Sono due squadre magnifiche che ogni tanto, siccome esiste la natura umana e non sempre non siamo dei robot, sono due squadre magnifiche che ogni tanto concedono qualcosa. Poi il Napoli, nella partita secca, io... lo sapete che quello che penso, lo penso all'inizio dell'anno, il Napoli nella partita secca se la gioca alla pari con tutte. La vera notizia di questo campionato è che il Napoli sia meno 12 della Juve, è una cosa che tecnicamente secondo me non ha... Sì, ha poche spiegazioni, che sia lì alla pari con il Genoa, con la Samp, e che non stia rendendo per il suo valore. Ma adesso detto De Laurentiis cambierà tutto. Ciao Pier! Ciao ragazzi! Buon ciao. Cenone, buon Natale! Auguri! Auguri. Ci fermiamo, 800 24 00 24. Quote e pronostici. In campo quest'oggi la Serie B con tutte le gare della 20ª giornata. La capolista Carpi attende alle 15 il Perugia in Emilia. Questo è il piatto forte del pomeriggio. Vediamo assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Carpi capolista, è quotata a 2,15. X a 3, 2 invece, con il successo del Perugia, quotato 3,75. Scontro salvezza al Francioni tra Latina ed Entella. L'1, il successo dei laziali, è quotato 2,05. X a 3, 2 invece, con la vittoria dell'Entella, quotata 4,15. La Ternana invece attende alla Liberati un cliente scomodo come il Modena di Novellino. L'1, il successo della Ternana, è quotato 2,80. X a 2,90. 2 invece con la vittoria del Modena, quotato 2,80. Chiudiamo con il match del tombolato tra Cittadella e Catania, l'1 la vittoria del Città è quotata 2,85, x a 3. 2 invece con il successo dei siciliani, quotato 2,65. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, l'augurio di un buon Natale a tutti. Convocati. Ah, aspettate, abbiamo il nostro fenomeno, piccolo fenomeno. Matteo Kovacic, dirlo qualcosa, amico mio. Ciao a tutti i tifosi, un saluto e buon Natale a tutti. Buonasera, capitano, ci vediamo stasera, prima volta, no? Ci aspettiamo, per favore, alzati perché dobbiamo dire qualcosa ai nostri tifosi. Vieni qua. Vieni, vieni. No, c'è questa. Palle, vai dal mister, no. Far così, dai. Oh, sì, no. Vediamo qualcosa. La tifosi aspettano seriamente, vai. La tifosi. Ah, il tifosi, non lo so. Cuzze è l'unico giocatore, l'unica persona al mondo che non c'ha una lingua madre, parla male tutte le lingue. No, aspetta, non stiamo parlando di questa, vieni qua. Devi. Io se parlo parlo di te, non parlo di altro. Auguri devi dire al tifosi. Tanti auguri a tutti quanti. Così serio? Certo. No, ma non sei mai così serio, vai. Senza telecamera, non sono serio. Ah, sì, va bene, dai. E questi sono gli auguri di Kuzmanovic, 800 24 00 24. Nicolò Schira qui con me. Abbiamo le domande sul mercato della Juventus a gennaio. Un difensore. Abbiamo detto Rugani, no. No, Rugani è difficile, chiaramente, insomma, anche per non rovinare gli ottimi rapporti con l'Empoli. L'Empoli ne ha bisogno per centrare la salvezza, dunque verrà riscattato per 3 milioni, ma tornerà alla casa madre bianconera a giugno. Si cerca una soluzione low cost per gennaio. Il nome caldo è quello di Rolando, vecchio pallino dell'Inter, lo rivoleva in estate Mazzarri, in scadenza con il Porto nel 2016, può andare via anche a titolo definitivo per una cifra tutto sommato abbordabile intorno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo. La Juventus però chiaramente preferirebbe un prestito e poi eventualmente ridiscutere di un possibile riscatto d'estate ventura. Poi c'è il solito Chiriches che da un paio di anni gira sugli schermi italiani senza peraltro approdare. È un giocatore in uscita, più che per la Juve potrebbe entrare in orbita Roma, ma bisognerà capire esattamente poi i tempi di recupero di Castan, quindi fossero abbastanza lunghi è chiaro che la Roma potrebbe andare a prendere Vlad Chiriches, che è un nome che comunque Sabatini apprezza e aveva trattato anche quest'estate prima poi di chiudere Yang Ambiwa, per il quale si lavora al riscatto dal Newcastle. Poi c'è Vidic. Vidic è una situazione particolare, offerte dalla Turchia e dalla Russia che però non solleticano particolarmente il giocatore. Mancini di fatto l'ha bocciato perché non ha mai schierato titolare, quindi se c'erano problemi con la difesa 3 di Mazzarri, addirittura con la difesa 4 di Mancini, la situazione è peggiorata. Si sta guardando intorno. Può andare alla Juventus, perché si è anche detto in questi giorni in fondo all'Inter andrebbe bene, si solleverebbe dall'ingaggio, per la Juve sarebbe un giocatore pronto da mettere nella difesa 4. Sì, più che una trattativa è alla stata fine potrebbe andare un'idea, bene a tutti. Se vogliamo, dell'agente di Vidic, che fra l'altro è un agente insomma molto quotato in casa bianconera, perché è l'agente anche di Gigi Buffon, ovvero Silvano Martina. Però al momento siamo nell'orbita delle idee, parlare di trattative è prematuro, anche perché insomma comunque sia andare a rinforzare per una diretta concorrente è sempre un rischio. Storicamente abbiamo visto che insomma certe operazioni poi sono delittuose per i club che cedono. Sì, sempre che la Juventus in questo momento sia una diretta concorrente dell'Inter, una rivale storica, in questo non caso non faccia due campionati diversi. Se avete la risposta 800 24 00 24. Poi c'è questa letterina che ci ha scritto un amico via SMS. Caro Berlusconi, Babbo Natale, per il Milan vorrei una mini rivoluzione. Fuori Zapata, Zaccardo, Bonera, Niang e Saponara. Tra di dentro, questi sono in uscita comunque. Sì, se riescono a piazzarli. Dentro Schweinsteiger, Asamoah, Rugani, Darmian e Snyder, e poi proporrei lo scambio fra Torres e Saviola. La fantasia non cosa manca. Cosa ne pensate? La fantasia non manca. sono trattative un po' difficili, anche perché insomma Darmian era già del Milan, il Milan lo scaricò veramente per cifre attualmente insomma molto basse rispetto all'attuale quotazione di mercato del terzino che piace alla Juve e alla Roma in prospettiva futura e anche al Napoli. Dunque sicuramente Darmian potrebbe essere il pezzo pregiato con il quale Cairo andrà a fare cassa in estate. È difficile che Milan possa partecipare ad un'asta per un giocatore che aveva, che aveva valorizzato nel proprio settore giovanile, che di fatto aveva svenduto, quindi sarebbe un po' un controsenso. È sì, difficile anche che Cairo, già al centro di mille polemiche con i tifosi del Torino, possa pensare a gennaio di vendere Darmian, che è forse l'unico pezzo che è rimasto della collezione del Toro. Per gennaio lavora due colpi però Cairo: Ilicic, che sembrava promesso alla Sampdoria, poi la Sampdoria ha virato su Correa, quindi sicuramente è un nome che piace moltissimo a Petrachi, anche perché come caratteristiche ricorda un po' Cerci, mancino, libero di saltare l'uomo, di calciare in porta, dunque potrebbe essere la seconda punta ideale per Ventura. E poi un centravanti, tante le idee, da Muriel a Piniglia, sul quale però è forte anche l'Atalanta. Sicuramente il Torino una punta la farà, perché a Mauria deluso le attese. Diamo per sicuro in uscita il Paco Torres. Insomma, è una Ci racconteranno chi in agosto ha pensato che potesse essere un affare riportarlo al calcio che conta, portarlo in Italia. Una scommessa. Scommettere non poco, perché è vero che è arrivato a zero di cartellino, ma ora ha un ingaggio ingombrante e non è semplice da piazzare anche per questo motivo. No, infatti l'unica pretendente reale è l'Atletico Madrid, sarebbe se vogliamo anche una scommessa da parte del direttore generale dei madrileni Caminero, però sarebbe anche una sorta di colpo revival insomma per i tifosi, visto che il Nino è stato lanciato dall'Atletico Madrid, ha vissuto gli anni neri dell'Atletico, perché la Serie B, il ritorno nella Liga, adesso invece potrebbe vivere questa epopea di grandi successi della squadra di Simeone, magari non da titolare, come dicevamo prima, da vice Mandzukic, però è un'ipotesi che sta prendendo sempre più quota. Chiaramente Torres, per tornare a Madrid, dovrebbe comunque spalmarsi l'ingaggio, perché l'Atletico non è nell'ordine di idee di dargli gli stessi soldi che prende il Milan. È vero che Inzaghi vorrebbe Pasqual della Fiorentina, ma Gagliani gli ha detto no perché ha più di 30 anni e il Milan non fa investimenti su giocatori ultra trentenni. Sì, la situazione di Pasqual è particolare, perché assomiglia, se vogliamo, a quella, ricorderai Giovanni, l'anno scorso di Paolo Cannavaro a Napoli. Pasqual è una bandiera della Fiorentina, è capitano, gioca titolare nella nazionale di Conte come esterno sinistro, ma non gioca nella Fiorentina dove fa panchina. È in scadenza di contratto a giugno, per il momento con il suo agente non si è parlato di rinnovo, ma addirittura è stato rinviato a marzo, legando il possibile appunto allungamento del contratto al numero di presenze, eccetera, a dei bonus, a dei vincoli. Quindi il giocatore sicuramente si guarda intorno, sarebbe un usato sicuro per l'immediato. È chiaro, non sarebbe l'ideale acquistare Pasqual per un investimento in prospettiva, in quel caso meglio altri nomi. Però insomma bisogna sempre capire poi il Milan quanto è intenzionato a investire nel mercato di gennaio. Al momento non c'è aria di grossi investimenti a livello economico. Roberto dalla provincia di Parma, 800 24 00 24. Ripeto, se state preparando il cenone, fate la cortesia, vi fermate ancora per 45 minuti. Noi siamo qui. Roberto, buonasera e auguri di buon Natale. Anche a te, prego. Chiedevo una cosa, lei che è molto informato anche in economia e così. Parlavo dello stadio della Juventus, io. Uno stadio di 41.000 posti, per me, per restare fra le prime 8-10 squadre d'Europa, è uno stadio piccolo, vorrebbero almeno sui 50-60.000, ma è ampliabile quello stadio lì? Non nell'immediato, si può fare tutto, però evidentemente si parla in ogni caso di un investimento importante e in ogni caso mi pare è quasi impossibile che lo stadio di Torino arrivi a quei 60.000, che è in linea di massima il taglio che un po' tutti i grandi club europei stanno scegliendo. Lo sta facendo anche il Liverpool, che ha appena iniziato i lavori ad Anfield Road, ci sta pensando il Chelsea, che è l'ultimo di questi grandi club rimasti con uno stadio intorno ai 40.000. Però sarebbe anche un po' un controsenso, perché se ci pensiamo bene la forza della Juve è sempre stata quella in casa in questi anni allo Juventus Stadium di vincere con il sold out, quindi con il tutto esaurito, con un pubblico sempre presente vicino alla squadra a trascinare, proprio perché 40.000 posti comunque sono più facilmente riempibili rispetto ai 70-80.000, che è il problema che hanno attualmente Milan e Inter a San Siro, dove non fanno neanche 30.000 in molte gare. Sì, però è anche vero che poi i numeri numeri dicono, la Juventus dopo tre anni di Juventus Stadium è arrivata intorno ai 40 milioni di euro di ricavi da stadio, le grandi europee stanno dagli 80-90 milioni in su. Ci sono anche però discorsi di merchandising, è un pochino secondo me. E quindi quello è il gap che la Juventus si dovrà trovare nei prossimi anni a chiudere, ed è un gap difficile, discorso che si può estendere anche al Milan, che sta pensando a uno stadio da 42.000. Oggi il Milan ha delle medie inferiori a questi 42.000, però è vero che storicamente, tornando indietro anche solo di qualche anno, il Milan è sempre stato abituato ad avere almeno una 50.000 tifosi a San Siro, e quindi sono ragionamenti da fare. Poi è ovvio che costa fare uno stadio a 60.000, costa meno farne uno da 42, e quindi in questo momento si può anche scegliere di fare un investimento minore. A proposito della Juventus, Montoya era una pista che si è un pochino raffreddata rispetto alle scorse settimane, anche perché la Juventus comunque, rinnovando il contratto a Stefan Lichtsteiner, 2 anni più 1, questa alla fine è il compromesso trovato tra le parti. Il terzino svizzero voleva un triennale da 3 milioni, la Juventus inizialmente aveva offerto 2 milioni e 2 per 2 anni, alla fine l'accordo è stato trovato intorno ai 2 milioni e mezzo più bonus facilmente raggiungibili, quindi se la Juve dovesse continuare sulla falsariga delle ultime stagioni, Lichtsteiner arriverà tranquillamente oltre i 3 milioni, 2 anni più opzione per la terza stagione. A questo punto la pista Montoya, come dicevamo, si raffredda, perché Montoya vuole lasciare Barcellona per giocare, per essere protagonista. La Juve, con il rinnovo di Lichtsteiner, a destra sarebbe chiuso. È vero che Montoya è adattabile anche a sinistra, però insomma a sinistra comunque ci avrà, Asamoah ritornerà dall'infortunio, quindi non è che Montoya avrebbe tanto margine per essere protagonista a lunga scadenza. Preferirsi a Torino per fare la riserva di Lichtsteiner non è esattamente quello che può spostare più Montoya facile da Barcellona. In Inghilterra adesso ci sono degli interessamenti, il Liverpool è uno dei club più interessati al terzino catalano. Giovinco invece va a gennaio o resta fino a giugno? Per il momento intenzione anche dei suoi rappresentanti quelli di arrivare alla scadenza e poi valutare in primavera le offerte e scegliere dove andare. Sicuramente la Fiorentina lo vuole, lo vorrebbe anche subito, però non c'è una convinzione totale per questo progetto. Ci sono stati dei sondaggi da parte di club inglesi, russi e tedeschi, è una fase ancora un po' prematura. Credo che insomma a giugno possa avere sicuramente più mercato rispetto a quello attuale. Poi c'è un amico che ci chiede se Mandorlini è il prossimo allenatore esonerato della Serie A. Mandorlini non vive un momento facile, è circolato lo spettro di Guidolin, che insomma è vero che sta facendo un coordinamento tecnico per le formazioni dei Pozzo, si sta occupando del Granada, di altri progetti insomma della Galassia Udinese, però sente la nostalgia della panchina, è stimato dalla proprietà, Setti lo conosce bene per l'esperienza in comune ai tempi del Bologna. Però è vero anche che insomma Mandorlini è un'icona, un'istituzione a Verona, quindi avrà altre chance. Ovvio che se dovesse continuare però a soffrire e a ottenere risultati non brillanti, la sua posizione potrebbe farsi scomoda, quello sicuramente. Sì, detto che in questi mesi il Verona è stato indebolito parecchio rispetto a quello che abbiamo conosciuto l'anno scorso. Federico, dalla provincia di Forlì. Federico. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo fare una domanda. Mi sembra di aver letto che il passaggio dalla Juventus al turno successivo della Coppa dei Campioni abbia fruttato un premio di circa 60 milioni di euro, se non mi sono sbagliato. No, circa 60 milioni di euro è quello che la Juventus ha incassato fin qui in Champions League, che nella migliore delle ipotesi potranno diventare un'ottantina, nella migliore delle ipotesi. Okay. E in ogni caso si attesteranno alla fine intorno ai 70. Prego Federico. Ok, allora, siccome io sono tifoso milanista, non capisco perché il Milan abbia venduto tre top players come Ibrahimovic, Pirlo e Thiago Silva, perché avevano problemi diciamo di ingaggio troppo alto, ma da quando ho venduto quei tre giocatori che avevano un ingaggio inferiore ai 70 milioni di euro tutti insieme, il Milan non ha più partecipato alle coppe e quindi mi sembra stata una mossa molto astuta e intelligente. Sì, in realtà il Milan non partecipa quest'anno alle coppe, è arrivato poi terzo, in precedenza la Champions l'ha fatta. Però la spiegazione sta tutta nei bilanci, Federico, cioè quelle cessioni, quella di Pirlo in realtà è un contratto non rinnovato con partenza parametro zero, servivano a chiudere dei buchi di bilancio, cioè sono soldi che poi non sono stati reinvestiti. Non so, Federico, se hai letto la prospettiva di bilancio del Milan nella prossima stagione, con un rosso da 50, 60, 70 milioni di euro. Dice che comunque anche il Milan dovrà fare qualcosa in uscita, per, in attesa del nuovo stadio, per provare a mettere una pezza. Sì, però diciamo, allora faccio come gli altri club che hanno dato la possibilità di intervenire ad altri soci con capitali freschi per poter far ritornare il Milan a una squadra competitiva. Diciamo, Berlusconi ci ha dato la possibilità di bere dello champagne fino a qualche anno fa, adesso ci vuole dare il tavernello e noi tifosi milanisti non siamo molto contenti di questo. No, tutto qui. Però bisogna anche capire che esistono anche questi momenti. Tifoso sì. Milanista ha anche bevuto l'acqua minerale della Serie B prima che arrivasse Berlusconi. Sì, certo. Sono cicli. Certo, certamente. Grazie Federico, sono cicli, ma la verità è che il Milan deve vendere qualcuno, tra cui è giugno. Sì, potrebbe vendere il Sharawi, anche se le quotazioni del Faraone si sono un pochino ridimensionate negli ultimi due anni rispetto al valore di mercato che aveva un paio di stagioni fa. Non è, al di là delle dichiarazioni di facciata ufficiali di Pippo Inzaghi, un intoccabile, perché di fatto è diventato una riserva, spesso viene sacrificato per Honda, Menes e Bonaventura nel tridente iniziale, quindi anche il suo entourage si sta guardando intorno, però insomma non è un mercato al momento particolarmente florido per Al-Sharawi, che rappresenta al momento il nome tramite il quale il Milan potrebbe fare cassa, magari intorno ai 20 milioni, non i 40 di che così venivano stimati un paio di anni fa, almeno per il momento. Poi insomma non si sa mai, arriva un mecenate innamorato del Faraone, però al momento insomma è difficile anche fare una grande cassa, e se la stima sono 70 milioni di deficit è chiaro che non basta una cessione. Interessa in Premier il Sharawi. Nicola Ruggero, ciao, collega di Fox. Buongiorno. Interessa? No. Ma al momento non credo, perlomeno non ho sentito voci in tal senso. Hai notizie di problemi che Mourinho possa mettere al ritorno di Torres a Madrid? No. No, non penso proprio. Non penso proprio che Torres facesse già più parte di piani di Mourinho, quindi dovunque vada Mourinho non cambia niente. Non si incatenerà. No, non credo che il Chelsea possa preoccuparsi eventualmente un domani dovesse ritrovare l'Atletico Madrid in Champions League e avere anche contro Torres, perché non penso che sia un discorso veramente con una serie di passaggi che al momento Mourinho e il Chelsea non fanno. Certo, intanto si gode queste vacanze di Natale, che in Inghilterra vacanze non sono, lo abbiamo detto, c'è il Boxing Day di Santo Stefano che esiste dal 1860, ho scoperto oggi leggendo i giornali, poi si gioca anche il 28, il 29 dicembre, il 1 gennaio, 40 partite in tutto, da qui a Capodanno. Calendario non male per il Chelsea, visto che parlavamo di Mourinho, West Ham, Southampton e Tottenham, quarta, quinta e sesta. Sì, calendario non male, soprattutto il West Ham che mi incuriosisce, perché già è un derby, poi il Boxing Day, quindi una partita che ha un fascino ancora più particolare. Il West Ham sta facendo benissimo, nonostante non fosse accreditato grosse possibilità in classifica, e quindi sarà un bel test. Lo sarà forse meno il Southampton, che ha giocato benissimo fino a qualche settimana fa, ma poi, come si prevedeva, tutto sommato si è un po' inceppato una volta che ha incontrato le grandi. E poi il Tottenham, che è un altro derby, quindi un'altra partita da prendere con le molle, anche se il Tottenham regolarmente come gli ultimi anni rientra un po' nelle delusioni della stagione. Sì, in generale è meglio il calendario del Manchester City in questo duello, perché per il momento si parla di duello, le altre sono più staccate. Non mi stupirei a Capodanno di trovare Pellegrini vicinissimo, magari anche alla pari o davanti rispetto a Mourinho. Sì, comunque non più distanziato di quello che adesso, cioè adesso è una distanza fattibile, c'è ancora lo scontro diretto da giocare, ci sono ancora poi tante partite, e c'è il fatto che il calendario di City e Chelsea si ingolferà, perché ci sarà ovviamente l'FA Cup, ci saranno comunque almeno gli ottavi di finale di Champions League, quindi insomma ci saranno tante variabili. E poi la Premier quest'anno ha dimostrato che i punti si possono perdere dovunque, per esempio il Chelsea ne ha buttati tre con il Newcastle, e la City ha perso in casa con Stoke City, quindi non è detto che sia lo scontro diretto a decidere, per cui l'importante è che le due squadre restino vicine. E poi insomma alla fine emergerà una che a mio parere quest'anno sarà il Chelsea. Sì, però Pellegrini un mesetto fa ci avrebbe messo la firma di arrivare a fine dicembre così, quando di lui si parlava anche come possibile esonerato, aveva davanti ancora lo scoglio del girone di Champions tutto in salita, arriva a fine dicembre in corsa in Champions perché è qualificato, pienamente in corsa per la vittoria nella Premier, un mese fa, due mesi fa probabilmente non ci avrebbe nemmeno sperato. Sai, il concetto è come nel tennis, si dice che nel tennis l'importante sia to survive, cioè sopravvivere, quindi passare turno per turno e rimanere nel torneo. Qui la stessa cosa, perché il City era praticamente fuori dalla Champions, sotto 2-1 a 5 dalla fine con il Bayern Monaco, ha recuperato grazie a Agüero, ha ottenuto una bella vittoria a Roma. Ecco, proprio la vittoria di Roma secondo me ha dato nuova consapevolezza al City, perché era una partita in cui giocava senza Agüero, senza Kompany, senza Yaya Touré e senza David Silva, cioè i quattro migliori elementi. Il fatto di averla fatta franca, di aver passato il turno, il fatto di aver messo insieme una serie di buoni risultati anche in Premier League, secondo me ha dato al City una nuova dimensione, soprattutto in termini di fiducia, e questa fiducia sicuramente potrebbe pagare, anche se ripeto, a mio parere quest'anno il Chelsea ha una quadratura e una solidità che ragionalmente ne fanno la favorita d'obbligo. Sì, poi c'è il Manchester United che è partito troppo tardi, Van Gaal ha scritto una bella letterina a Babbo Natale: caro Babbo Natale, vorrei un certo Bale, posso spendere fino a 153 milioni di euro, grazie, fammi sapere qualcosa. Nicolo Schira, credo che ne riparleremo, se ne riparleremo a giugno, sicuramente a giugno. Gennaio non ci sono i margini, però la forza economica dello United, e l'abbiamo visto anche in estate, può permettere comunque ai Red Devils di tornare protagonisti alla grande dopo magari e disavventure della gestione Moyes. Sì, intanto Nicolò riempie le prime pagine dei tabloid, ma è giusto così, eh? Scusa? Intanto riempie le prime pagine dei tabloid, ma è giusto così, no, con sicuro, questi sogni, tabloid, 153 milioni di euro. No, dicevo, i tabloid non è che siano proprio affidabilissimi in fase di mercato, cioè si divertono anche abbastanza in questo senso. Fra l'altro parlavi bene di lettera di Natale di Van Gaal, il problema è che insomma Babbo Natale quest'anno l'ha contattato abbastanza anche in estate, perché sono arrivati Di Maria, Falcao, Shaw, Rojo, Blind, Herrera, insomma non esattamente una squadra economica. Certo, c'è aggiungesse anche Bale, meglio ancora, però in questo momento il problema di United è essenzialmente la difesa. Se io andrei a rafforzare lì, perché lo United da centrocampo in su è una squadra che vale la Champions, la Champions nel senso di vittoria, dal centrocampo in giù è una squadra che vale, nelle migliori delle ipotesi, la metà classifica inglese. Quindi andrei a rafforzare lì più che a pensare all'attacco. L'attacco, i problemi li risolvono da soli quelli che hanno. Sì, ma i difensori fanno vendere poco. Nei giorni scorsi l'agente invece di Nemanja Vidic, ovvero Silvano Martina, aveva svelato che il Manchester United comunque aveva ricontattato il suo assistito per un clamoroso ritorno ad Old Trafford. Come vedresti questo scenario ed eventualmente se lo ritieni percorribile, visto che comunque Vidic ha rappresentato una leggenda per lo United, mentre in Italia insomma sinora ha un po' deluso le attese, ha steccato e con Mancini non trova spazio? Ma per carisma sarebbe un'ottima idea, certamente. Per valore attuale meno, anche se ripeto, vista l'attuale difesa dello United, uno come Vidic, uno della sua esperienza, una delle sue qualità, una della sua leadership, non farebbe male. Sì, va bene chiunque, clamoroso. Vista l'attuale difesa. Esatto. Basta un difensore non bravo, ma uno qualunque già si migliora. Con il vincolo che poi giochi, perché sempre in 11 bisogna giocare e una delle altre figurine deve dargli posto. Oh, per chiudere poi ci sono i nostri, gli italiani. Balotelli perdonato dalla Football Association, però si sono perse le tracce di lui da metà dicembre e non so se in queste vacanze di Natale abbiamo qualche possibilità di rivederlo, Nick. Non lo so, perché mi sembra che anche Rogers si stia convincendo che il Liverpool possa far meno di Balotelli, nel senso che nell'ultima partita, a parte che era squalificato per il famoso tweet punito della Football Association, però non ha giocato, ha giocato senza punti il Liverpool, ha tenuto Lambert in panchina, è entrato Borini. Ecco, mi sembra che il Liverpool, visto con l'Arsenal, abbia dimostrato che può anche far meno di Balotelli. perlomeno del Balotelli che va visto negli ultimi tre mesi, quindi la vedo dura. Molto meglio Pellea al Southampton. Sì, molto meglio, molto meglio anche di Cellino, di cui oggi abbiamo appreso. 15 gennaio appello contro la sentenza, 18 marzo fine squalifica, mercato bloccato per il Leeds per aver violato le regole locali del fair play finanziario, in compenso già 4 cambi in panchina. E questo è il bilancio del primo anno di Cellino in Inghilterra. Grazie Nicola. Beh, direi niente di nuovo sotto il sole, allora. 4 cambi in un anno, direi che ci siamo, come media è rispettata. Siamo in piena media, 2014 come quelli che li hanno preceduti. Grazie Nicola. Grazie a voi, buon Natale a tutti. Buon Natale Nicola Roggero, ripetiamo, Premier in campo 26, 28, 29 dicembre e 1 gennaio. Tutti convocati. Yo. You know, it was the last time I sung this song, I was like... Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go. Ma non so le parole. All the way. There's a boundary. Making speed. Chiedo a un amico se Pepe è definitivamente fuori rosa. 349-238-6666 per i vostri messaggi. 800-24-00-24 per chiamare in diretta. No, è andato anche in panchina, non è sicuramente fuori rosa. È chiaro che al momento non rientra particolarmente nei piani. Aveva avuto delle offerte anche in estate che non l'avevano chiaramente solleticato, e mi riferisco a una fattispecie alle richieste di Parma e Cesena, che poi sono due formazioni che insomma languono nei bassi fondi. Bisogna vedere a gennaio se arriverà qualche proposta, altrimenti arriverà sino a giugno e poi le strade eventualmente si separeranno. Fabio D'Ancona dice: per il Milan vorrei anche Fabregas e Manolas. Non male Fabregas, che costa almeno 50 milioni. Manolas invece era un colpo più economico, è stato bravo Sabatini in estate a prenderlo per 11 milioni dall'Olympiacos. Adesso già ne vale almeno 15-16, insomma sta facendo molto bene e non ha fatto rimpiangere Benatia. Qual è la prossima plusvalenza della Roma? Per gennaio evidentemente, stiamo parlando di giugno. Credo Strootman in Inghilterra in estate, Manchester United in pole position, anche se pur ci sono anche altre richieste, però credo che insomma sui 30-35 milioni almeno possa essere quella la prossima plusvalenza di Sabatini, ma occhio anche alla situazione di Mattia Destro. Ecco, Destro che è da qualche mese evidentemente scontento della sua situazione alla Roma, non ha fatto del resto nulla neanche per nascondere che si aspetta di più in termini di utilizzo, forse anche in termini di ingaggio, in termini di soprattutto prospettive. Soprattutto di utilizzo e di prospettive, perché di fatto con Gervinho che è intoccabile, con i Turbe e gli Aic che giocano sulla fascia opposta, in mezzo ci sono Totti e Mattia Destro, come parlavamo anche con Pierluigi Pardo, Totti è un totem, è un'icona, è intoccabile, ma di fatto rende Destro una riserva di lusso, situazione che non piace né all'attaccante originario di Ascoli né al suo entourage, perché parliamo di un classe 91 nel giro della nazionale che, se gioca così poco, da prima rischia di perdere la maglia azzurra e poi anche di non spiccare il volo definitivamente, ma di restare un buon ottimo attaccante che però in prospettiva avrebbe i colpi anche per segnare 20 gol a stagione. L'anno scorso quando ha giocato aveva fatto benissimo, aveva una media realizzativa decisamente importante. Destro viaggia praticamente a un gol a partita di media. Esatto. Il problema è che gioca la metà delle partite rispetto a quelle che potrebbe fare, e non è solo una questione di infortuni. Lo vuole il Milan, piace molto al Milan. L'offerta però più concreta che potrebbe accontentare la Roma anche a livello economico potrebbe essere quella dell'Arsenal. L'Arsenal cerca un attaccante, Wenger un grande stimatore di Mattia Destro, l'aveva seguito anche l'anno scorso, e per gennaio sarebbe pronto comunque ad acquistare una punta investendo 20-25 milioni, insomma una cifra che evidentemente insomma la Roma prenderebbe seriamente in considerazione. Poi bisognerebbe capire Walter Sabatini come si orienterebbe. un suo pallino è Jackson Martinez del Porto, chiaramente però un'operazione più difficile a gennaio rispetto che in prospettiva estiva. Piace molto anche Luis Adriano, che in Champions ha fatto faville, ha segnato a raffica con lo Shakhtar Donetsk. Insomma, ci sarebbero comunque dei profili alternativi. Insomma, Sabatini da questo punto di vista sul mercato internazionale è molto... Sì, le idee non mancano, se poi in tasca hai una ventina di milioni di euro, sì. Qualcosa si può fare, anche se non è semplice pensare che la Roma si divida da destro a gennaio. Se si fa perché qualcuno arriva con un assegno importante, e questo secondo me taglia le strade italiane. Anche se nell'ultimo incontro che c'è stato fra le parti, o altre ipotesi. Anche se nell'ultimo incontro, Giovanni, che c'è stato fra le parti, è bene ribadirlo, insomma, i rappresentanti di destra hanno sottolineato come questa condizione attuale di minutaggio e di impiego non sia gradita, quindi è chiaro che o le cose saranno destinate a cambiare, a mutare, oppure una partenza, insomma, non è da escludere a priori, assolutamente. Cosa se ne fa la Roma di un altro portiere? E parliamo di Neto della Fiorentina. Beh, De Santis, al di là, insomma, della topica dell'eroe sesquipedale clamoroso commesso contro il Sassuolo, comunque non è più giovanissimo, è ultra trentenne, dunque di fatto è stato allungato il contratto, ma nelle idee della Roma l'anno prossimo dovrebbe essere il dodicesimo di esperienza, che possa fare da chioccia, da leader, da uomo spogliatoio, perché comunque è molto ascoltato dai compagni di squadra, per un giovane rampante. In quel caso il brasiliano Neto piace tantissimo a Sabatini, c'è un accordo di massima per un quadriennale con l'agente del calciatore Stefano Castagna. È ovvio che adesso bisogna trovare il modo, tra virgolette, di comunicare alla Fiorentina questa decisione, perché Della Valle è andato giù durissimo nei giorni scorsi. D'altronde la Fiorentina aveva sempre difeso Neto negli ultimi due anni, di fronte ad errori, a contestazioni, a polemiche, si sente un po' tradita. Però è chiaro che l'offerta romanista, sia a livello economico e anche di progetto, insomma, possibilità di fare a Champions da protagonista, non è insomma un aspetto da trascurare. Sì, Fiorentina... non mi sembra che la Fiorentina sia disposta però a fare sconti, lasciarlo andare. Non, no, l'ha presa, infatti, benissimo, infatti, Della Valle l'ha detto chiaramente. È più facile che poi a giugno, essendo in scadenza di contratto, che state si separino e se ne vada a parametro zero. È chiaro che a gennaio sicuramente la Fiorentina non, da quel punto di vista non scenderà a compromessi, a patti. È vero che anche a Firenze la situazione a livello dirigenziale è da monitorare, perché c'è Pradè in scadenza e sembra destinato ad addio. Edoardo Massia ha fatto benissimo in questi anni e ha una richiesta del Barcellona, dunque potrebbe cambiare lo staff degli operatori di mercato e quindi a cascata anche cambiare un po' le strategie, le dinamiche. Lo stesso Montella, magari anche Montella, sembra un po' alla fine di un ciclo, anche se Montella, ad onor del vero, ha comunque un contratto sino al 2017. Sì, e quindi tecnicamente blindato, poi già immagino a maggio si riaprirà il balletto, lui per primo dirà: vediamo il progetto, il mercato, devo capire un po' come è successo l'anno scorso, e poi sapremo se Montella ha o no altre offerte. A proposito della Roma, così chiudiamo il discorso della Roma e del possibile tesoretto con cui Sabatini potrebbe presentarsi a gennaio, quasi certamente a giugno. C'è anche Perotti, quello che è stato forse il colpo migliore della sessione estiva del mercato, l'ha fatto il Genoa, piace moltissimo, l'ha pagato praticamente nulla, 300.000 euro più le commissioni ai procuratori, quindi sicuramente una cifra a dir poco, insomma, da Serie B, da Lega Pro quasi, come operazione, con tutto il rispetto invece per un calciatore di grande qualità, di grande talento, che sta facendo benissimo. Piace a tutte le big Perotti, perché insomma ha un ingaggio abbordabile. Il Genoa comunque, vendendolo anche a cifre non straordinarie, porterà a casa una ricca e succosa plusvalenza. La Roma vuole anticipare i tempi, c'è stato un incontro lunedì sera proprio a Milano fra Walter Sabatini ed Enrico Preziosi, si è parlato comunque di un discorso ad ampio respiro, perché Roma e Genoa comunque hanno in ballo la comproprietà di Andrea Bertolacci, che è un giocatore finito nel giro della nazionale, che sta facendo che molto tornerà bene. Tornerà a Roma quasi, però bisogna mettersi d'accordo comunque sulle cifre, perché la comproprietà è libera e quindi tutto può accadere al Preziosi tempo stesso. Qui ha giurato che Bertolacci interessa il Genoa, che lo vogliono tenere, costruirci su un progetto. Tutto si può, anche che torni a Roma. Anche che torni a Roma, chiaramente, però poi bisognerà andare a capire anche la situazione di alcuni giovani invece che piacciono al Genoa, come Antonio Sanabria, attaccante classe 96, scuola Barcellona, che a Roma trova poco spazio, che ha bisogno di giocare. Il Genoa, insomma, ha chiesto il prestito, potrebbe essere un'operazione anche questa, comunque legata ad una possibile opzione per giugno su Perotti, di fatto da bloccare, da stoppare, poi da chiudere in estate, perché Preziosi è stato chiaro, non vuole mollare il suo gioiello a gennaio. E poi sull'asse Roma-Genoa, occhio sempre a Marco Borriello, perché a Roma comunque gioca con il contagocce, se non mai. il Genoa cerca un attaccante, dovesse andare via Piniglia, dunque potrebbe materializzarsi il grande clamoroso ritorno, a patto che Borriello però si spalmi l'ingaggio, visto che è l'ultimo anno di contratto con la Roma, ma da qui a giugno percepirà ancora 2 milioni e 100 mila euro. Sì, Marco Borriello, a volte ritornano. Cercherei di non parlare del 2014 perché è un anno da dimenticare, quindi se vogliamo parliamo del futuro, possiamo fare quello che vogliamo, ma il 14 preferirei non discuterlo, perché per quanto mi riguarda la Formula 1 per la Ferrari quest'anno è stato un grandissimo disastro. Parole di Sergio Marchionne, saluto Marco Mensurati, collega di Repubblica, ciao Marco. Buongiorno. Come hai scritto oggi, tra la via Emilia e il West, ieri è esploso l'ennesimo colpo dell'ormai eterno duello tra Marchionne e Montezemolo. Marchionne l'abbiamo sentito, ieri Montezemolo ha risposto: basta insulti, merito rispetto. Morale, c'era una volta lo stile Ferrari, ammesso esistesse uno stile Ferrari, Marco. Sì, sì, assolutamente. Il stile Ferrari esisteva, oggettivamente va detto, e adesso è gravemente a rischio. In realtà il titolo che abbiamo fatto oggi sull'edizione di Repubblica è anche ottimista, perché la realtà è che oltre a c'era una volta lo stile Ferrari, qui bisognerebbe dire c'era una volta la Ferrari, perché dal punto di vista industriale, finanziario, sta succedendo qualcosa di assolutamente rivoluzionario. L'azienda si sta trasferendo altrove e dal punto di vista sportivo quello che era una leadership, prima come dire morale, anche se è una parola che fa un po' ridere applicata a questi temi, e poi sportiva, insomma, non c'è più, ecco, questo è il vero tema. E la cosa drammatica è che sullo sfondo di queste macerie i protagonisti della vita sportiva automobilistica, invece di rimboccarsi le maniche, stanno lì a darsene di santa ragione senza un apparente motivo. Sì, sentito Marchionne definire inopportuna la nomina di Todd a capo della FIA, poi ha detto che Eccleston è pittoresco, tutto per farsi un paio di amici, visto che la Ferrari non ha bisogno di una mano per provare a risalire dal buco. Sì, come lo trovi dal punto di vista comunicativo? Lo trovo abbastanza singolare, ma non tanto perché non si possa prendere di petto Todd o Eccleston, anzi probabilmente è proprio quello che bisogna fare per vincere, ma bisogna farlo su temi e con modi opportuni. Allora, invece di insultare gratuitamente Eccleston dandogli del pittoresco, o Todd dandogli dell'inopportuno, forse sarebbe stato più utile, e sarebbe ancora oggi più utile per la Ferrari, dire che Eccleston e Todd hanno fatto un'inchiesta ridicola e grottesca sull'incidente che ha, diciamo, distrutto la vita di Jules Bianchi, e che quindi va tutto rifatto da capo, ecco. Però la Ferrari su questo squittisce, mentre appunto ruggisce laddove non serve a nulla. Sì, l'unica certezza è che nel 2015 andrà ancora piano, l'ha detto Marchionne, pensiamo al massimo di poter vincere due gare, fossero tre sarebbe stupendo, fossero quattro saremmo in paradiso, abbiamo però un ritardo al momento incolmabile. Ricordo che Montezemolo, più o meno un anno fa, aprendo la stagione che poi si è rivelata essere la sua ultima, disse: siamo stufi di arrivare secondi, a parte che era arrivato terzo l'anno prima, quest'anno la Ferrari è arrivata quarta, però le gerarchie sembrano cristallizzate. Sì, in realtà l'unica gerarchia cristallizzata, diciamo, il dominio che sembra cristallizzato è il dominio Mercedes, questo per motivi appunto di superiorità tecnologica e industriale. Ora, quali saranno poi realmente i valori in campo, lo scopriremo probabilmente tra il secondo e il terzo test programmati a fine febbraio. Certo, quello che insomma si sembra di poter dire è che la Ferrari non rivoluzionerà l'attuale panorama, e questo in realtà dovrebbe suggerire un comportamento, diciamo, di maggior understatement da ogni punto di vista, ma allo stesso Marchionne, insomma, perché poi adesso lui non è più un businessman, adesso lui è un uomo di sport, insomma, quindi quando lo vedremo alle prese con la Mercedes, se la sua Ferrari non vincerà, allora ogni parola sarà una semplice scusa, ecco. Non è che ci saranno grosse motivazioni da addurre, adesso sta a lui è, nella conferenza stampa di inizio anno ha provato a mettere avanti le mani dando la colpa alla vecchia gestione, ma insomma lui era nel consiglio di amministrazione della vecchia gestione, ora è presidente, se a Melbourne la Ferrari non dovesse vincere, allora il processo avrà lui come principale imputato. Sì, diciamo che l'ombrello protettivo dell'alibi Montezemolo tra marzo e aprile è destinato poi a svanire, e Marchionne anche dal punto di vista della comunicazione dovrà camminare con le sue gambe. Poi c'è l'altro articolo oggi su Repubblica che ha colpito molto i ferraristi, l'ipotesi dal 2016 che la Ferrari possa avere il cuore, la power unit targata Mercedes. C'è il traffico, Marco, poi ripartiamo da qui. Tutti convocati. L'unica certezza è che nel 2015 la Ferrari andrà piano, perché ce l'ha detto anche Marchionne. Poi dal 2016 si potrebbe prendere la scorciatoia di montare su tutte le auto la power unit della Mercedes, proposta che sa un po' di forzatura, ma che, come ha scritto oggi Marco Mensurati su Repubblica, è stata per il momento rispedita al mittente dalla Renault e dalla Red Bull e non dalla Ferrari. Marco? Sì, la Ferrari ha ascoltato la proposta senza battere ciglio, riservandosi di dare una risposta, di prendere una decisione. Stiamo parlando ovviamente di una cosa che sarebbe rivoluzionaria, poi ovviamente gli apparati di comunicazione dei vari team la presenterebbero in modo diverso. Ovviamente la Mercedes direbbe: abbiamo dato la parte innovativa del motore a tutti i competitor della Formula 1, insomma, quindi abbiamo trasformato la Formula 1 in Formula Mercedes. E invece la Ferrari potrebbe dire: noi continuiamo a fare il motore, quello classico, poi le batterie, carica batterie, li compriamo come facevamo prima dalla Marelli, adesso dalla Mercedes. Ora è evidente che questo, insomma, al di là della comunicazione, sarebbe una sconfitta, ma bisogna prima vedere se la Mercedes avrà la forza di portare tutti su questa strada qui, ecco. Sì, schermaglie dialettiche. In realtà sarebbe la caduta di una parte del mito, cioè il mito di una macchina italiana costruita a Maranello, con il motore che è il suo cuore, che è diventato una leggenda in tutti questi anni, insieme al design, insieme a tante altre cose che fanno la Ferrari. Beh, sarebbe la caduta integrale del mito, perché insomma la Ferrari rimarrebbe, come dire, a produrre un pezzo ottocentesco, mentre la parte attuale, la parte tecnologica, la parte cool del motore lo dovrebbe comprare dalla concorrenza. Per questo sono rimasti stupiti molti quando hanno visto che la Ferrari non respingeva sdegnata la proposta, insomma, parte che invece si è assunta la Renault, e che ha molto semplicemente spiegato che a lei una roba del genere a quel punto non interesserebbe più, e quindi se si decide così lei abbandonerebbe la Formula 1. Modello nobile di delocalizzazione, restando a tanti discorsi che riguardano non solo la Ferrari ma anche la casa madre. Stando così le cose, c'è che la Mercedes è destinata a dominare l'anno prossimo, magari anche il 2016, magari c'è chi dice, sussurra, che fino al 2020 potrebbe non esserci competizione, cosa che evidentemente porterebbe, credo, anche alla morte per asfissia della Formula 1. Anche per questo bisogna stare attenti a questi movimenti. Sicuramente, io personalmente non credo che nel 2016 ci saranno ancora queste regole qui, anche perché non conviene più a nessuno. Il problema è che se venissero cambiate in maniera troppo brusca, cioè se si tornasse a un motore di vecchio stampo, la Formula 1 rischierebbe di perdere la Mercedes, che insomma in questo momento non se lo può proprio permettere. Quindi la partita è molto molto delicata. Ora il 2015 sembra destinato ad andare, diciamo, sulla falsa riga del 2014, nel 2016 molto probabilmente assisteremo a una rivoluzione. Se questa rivoluzione sarà appunto la power unit made in Germany per tutti quanti, allora sarà un conto, altrimenti bisognerà vedere che tipo di regolamento ci troveremo a dover seguire. E poi scrive un amico: se metteranno tutti i motori Mercedes, smetteremo di guardare quello che rimane della Formula 1. Chissà, abbiamo tempo per vederlo. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie a Marco Mensurati, collega di Repubblica. Primi tempi della Serie B che sono finiti, si sta segnando molto in questa giornata prenatalizia. Allora ve li leggo velocemente: Bologna-Provercelli 2-0, Brescia-Bari 1-0, Carpi Perugia 1-0, quindi continua la corsa del Carpi in testa alla classifica. Cittadella Catania 1-0, Latina Entella 1-1, Pescara Varese 1-0, Spezia Lanciano 3-2, Ternana Modena 0-0, Trapani Avellino 1-1 e Vicenza Livorno 0-0. Scrivono gli amici da casa: se Mascherano e Skrtel al Napoli sono due opzioni ancora possibili. Erano due trattative dell'anno scorso, credo che le piste si siano decisamente raffreddate al momento, soprattutto che Mascherano comunque ha rinnovato per diversi anni con il Barcellona. Skrtel tutto sommato è protagonista al Liverpool, quindi al momento sicuramente sono delle piste non più privilegiate come erano l'estate scorsa. Sì, anche perché De Laurentiis da Doha, prima di vincere la Supercoppa e addolcirsi, ha spiegato chiaramente a Benitez e a tutti gli altri che il Napoli non si può permettere due centrocampisti con ingaggio multimilionario, è fuori budget, e quindi Mascherano è stata un'idea, un sogno, forse una suggestione dell'estate scorsa. Oggi però le scelte sono diverse. Sono diverse, poi comunque la politica del Napoli, ha sempre detto De Laurentiis, è di prendere giocatori giovani ed eventualmente rivendibili anche a suon di grandi plusvalenze. Gli esempi principali sono quelli di Cavani e Lavezzi comprato per 5 milioni e rivenduto a 30, Cavani arrivato per 16 milioni e rivenduto praticamente a 70, quindi insomma la strategia è quella: se prendi dei calciatori importanti, affermati, ma 27enni, 28enni, 30enni, diventa poi complicato, anche qualora facessero benissimo un anno o due, poi rimetterli sul mercato e portare a casa quantomeno la stessa cifra, se non di più. Sì. Quando dovrebbe rientrare Pepito Rossi? Si spera a marzo, purtroppo è una situazione insomma complicata, è un grandissimo talento, speriamo che quando rientri comunque non si debba più fermare, visto che è stato martoriato da tantissimi infortuni ed è uno dei principali attaccanti ai quali ci possiamo aggrappare per sperare in un'Italia insomma protagonista nelle prossime manifestazioni internazionali. Sì, poi c'è davanti tutto l'anno che dovrà portare gli europei, e speriamo che Pepito Rossi almeno per il 2016 possa essere un giocatore pienamente recuperato. Fa qualcosa la Fiorentina a gennaio? Qualcosina. Considerato che Gomez non ingrana, considerato che Rossi ha quasi perso tutta la stagione. Stanno valutando delle ipotesi in avanti, sicuramente poi bisognerà capire anche la situazione dei rinnovi, perché abbiamo parlato di Neto e di Pasquale, ma c'è in scadenza anche Aquilani e la situazione in stand by, quindi sicuramente in casa fiorentina paradossalmente per certi aspetti si è alla fine di un ciclo e c'è da capire su quali elementi la società gigliata sia intenzionata a puntare per il futuro e chi invece magari si possa ritrovare già con le valigie in mano a gennaio, in modo magari da incamerare qualche soldino piuttosto che perdere il calciatore definitivamente a zero. Poi chiaro, in avanti, con tutti gli infortuni che ci sono stati, qualora ci sia un'occasione low cost, la Fiorentina sembra intenzionata a coglierla. Si è parlato di Girardino nelle ultime ore, sarebbe ancora ipotesi suggestiva un clamoroso ritorno. C'è anche Diamanti che amerebbe tornare dalla Cina all'Italia. Sì, però il problema di entrambi è che in Cina hanno degli ingaggi monstre e quindi dovrebbero prima scindere dietro l'auto a buona uscita e poi eventualmente trattare in Italia. Insomma, non è così semplice l'operazione Diamanti, così come quella Girardino, però entrambi vogliono tornare a tutti i costi e quindi delle scelte magari delle quali poi si sono pentiti a distanza di pochi mesi Girardino e di un anno Diamanti. Sì, però c'è che con questa corsa per il terzo posto virtualmente aperta a tantissimi, in tanti possono anche essere invogliati a tentare di fare un investimento, magari anche la Lazio, che ha fatto una campagna importante quest'estate, però è lì, è terza. La Lazio cerca un difensore. Diamanti insomma non è un mistero, sia un pupillo di Pioli che l'ha allenato per 2 anni a Bologna, i due hanno un grandissimo rapporto, però non mi sembra un'ipotesi sulla quale adesso Lotito ci senta molto. Invece il difensore, stanno valutando diverse piste estere, proprio perché comunque serve un centrale per completare il pacchetto arretrato, e poi in uscita insomma ci sono quei giocatori che hanno convinto meno, tipo Bruno Pereirinha, che potrebbe andare a far altro in Portogallo allo Sporting Braga, dove allenano due ex laziali come Fernando Couto e Sergio Conceição. L'ultima su Icardi e Guarin. Icardi è più una situazione per giugno, è chiaro, al momento il rinnovo sta slittando, guadagna poco per quanto ha dimostrato sinora Icardi, perché guadagna 1 milione netto all'anno, vuole almeno il doppio se non il triplo, c'è distanza con l'Inter anche sul discorso dei diritti d'immagine, dunque È una situazione da monitorare. Non è neanche escluso che Inter possa fare cassa incamerando 25-30 milioni dalla cessione dell'attaccante classe 93. Per quanto riguarda Guarin, ha avuto tante occasioni, però continua a deludere. Se per la quarta sessione con di fila di mercato parleremo di lui come possibile partente. È da capire però chi davvero poi possa farsi avanti. C'è stato un sondaggio del Valencia, però insomma al momento si muove poco sul fronte Guarin, ed è un giocatore che guadagna tanto, che guadagna intorno ai 3 milioni, quindi non è facilmente collocabile, a patto che non sia la Juventus. Ma credo che la stessa Juve abbia mollato un po' la presa rispetto invece all'estate, dove comunque qualche pensierino era rimasto sul calciatore, poi restando Vidal, arrivando Pereira che gioca più o meno nello stesso ruolo. Di fatto l'ipotesi Guarin si è eclissata per i bianconeri. Grazie Nicolò. Grazie a voi. Io ringrazio anche Franco Piantanide, autore di questa puntata, Fabio Cantadori in regia. Un augurio di buon Natale a tutti voi. Domani ci siamo ancora, sempre dopo il GR delle 14. Ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico, con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba gli squilli, e si intravede lontano e sottopassaggio il divin codino del divino baggio.